get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Quella che state per ascoltare sarà la nostra 332esima trasmissione. Stasera in studio siamo Caterina che vi sta parlando e con me ci sono Lucilla e Rosina che stanno litigando, una con le cuffie e l'altra con il microfono, però giuro che ci stanno e non sto da sola. Allora, ma non saremo sole ancora per molto, perché abbiamo programmato per oggi, infatti, una intervista che si preannuncia molto interessante. Interessante perché avremo il piacere di avere con noi, sia pure in diretta telefonica, niente poco di meno che Margherita Giacobino. Allora, come CLR abbiamo avuto il piacere di averla nostra ospite lo scorso ottobre, quando insieme alla Casa Internazionale delle Donne abbiamo presentato il suo ultimo libro dal titolo Ritratto di famiglia con bambina grassa. Ecco, sentite sottofondo il rumore dei microfoni, sono loro che ci stanno provando, ce la possiamo fare anche questa sera. Allora, stasera con lei invece parleremo di Aspirina, che è la rivista acetil satirica, e sarà un modo per approfondire la conoscenza per coloro che già la conoscono ed una buona occasione per farla scoprire a chi invece ancora non l'ha mai letta. Adesso ascoltiamo un brano musicale di quelli che ci sono stati suggeriti proprio da questa, per questa trasmissione, perché ci è stato detto che appartengono alla sfera della musica aspirinica. Quindi ascoltiamo allora dalla voce delle Pinne, che è un duo pop milanese che collabora spesso con Aspirina, il brano Silvia. Allora, vediamo se ho fatto tutti i collegamenti giusti. Ci sei, Margherita? Ci sono. Vai. Buonasera. Buonasera, Margherita. Buonasera a voi. Buonasera, benvenuta. Come ha anticipato Caterina, questa sera appunto parleremo con te di Aspirina, la rivista online, ma prima ovviamente di cedere il microfono a Lucilla per l'intervista vera e propria, volevamo dire due parole su Margherita Giacobino, anche se in realtà lei, si sa, non ha bisogno di presentazioni, ma qualcosa, Margherita, concedici, lo dobbiamo ovviamente dire. E allora, vai. Allora, correggimi se sbaglio, Margherita. Dunque, Margherita Giacobino, torinese, scrittrice, traduttrice, giornalista e anche regista, una quantità di cose. Troppo, ma è tutto vero. Allora, Margherita, tu hai curato molte traduzioni, tra le quali ricordiamo Cime Tempestose, Madame Bovary per Frassinelli, Le donne che rubavano i mariti, l'altra Grace di Margaret Atwood, che è una delle mie scrittrici preferite, per Bardini e Castoldi. E poi sei ovviamente anche autrice di romanzi, di racconti, ricordiamo fra tutte Un'americana a Parigi, Pioniere del sesso, alcuni saggi, Svegliatevi bambine, insieme a Pat Carra, che tra l'altro lavora con te in Aspirina, Orgoglio e privilegio, un viaggio erotico nella cultura lesbica, eroi, scusate, questo è un lapsus non freudiano. Non so che cosa vuol dire questo erotico. È un lapsus freudiano, Margherita, perdonami. Sì, d'accordo. E poi Guerriere, ermafrodite e cortigiane, una serie di percorsi trasgressivi delle soggettività femminili in letteratura, e molti romanzi, tra cui l'ultimo, diciamo, Ritratto di famiglia con bambina grassa, che abbiamo avuto, uscito per Mondadori nel 2015, che abbiamo avuto il piacere di presentare al Buon Pastore insieme a te. E come regista hai curato due documentari, A Family Romance, su Lillian Federman e la sua compagna, e Sara, sulla poeta e scrittrice siciliana Sara Zanghi, con la quale anche noi abbiamo avuto a che fare, abbiamo presentato un suo libro un paio d'anni fa, un tributo al suo lavoro, insomma, a questa donna straordinaria. Tutto giusto fin qui, Margherita? È tutto giusto, sono quasi 10. Perfetto, sono quasi le 10, è vero. Allora, vogliamo dire questa cosa prima di lasciare il microfono a Lucilla per le domande che ti farà su Aspirina. Tu sei solita dire di te: perché scrivo storie di donne? Perché sono quelle che più mi interessano e che conosco meglio. E quindi, visto che il partire da noi è per noi, per del partire da noi. Sé è per noi fondamentale, io a questo punto direi che non mi dilungo oltre e ti lascio alle cure di Lucilla per parlare di Aspirina. Grazie, Margherita. Grazie, Rosina. Allora, Margherita, buonasera. Naturalmente adesso si cede il posto a una voce meno radiofonica di quella di Rosina, ma noi Rosina la chiamiamo The Voice, e quindi capisci la voce. Allora, intanto ci siamo parlate già quando ci siamo viste per la presentazione del tuo ultimo libro, proprio del tuo lavoro in Aspirina. Allora, intanto, dalla carta al web, ci piacerebbe che tu magari ci dicessi qualcosa della storia di questa splendida rivista. Sì, certo. Allora, Aspirina è come la Fenice, che non muore. Meno male. Che rinasce. Aspirina è nata nel 1987 ed è nata ovviamente su carta, era una rivista vera e propria, è nata nell'ambito della Libreria delle Donne di Milano, che è il luogo così storico del femminismo radicale italiano, un luogo storico ovviamente. È nata anche su ispirazione di alcune donne della libreria, e soprattutto mi piace ricordare di Bibi Tomasi. Si chiamava, sì, allora, si chiamò, e credo proprio sul suggerimento di Bibi, Rivista per donne di sesso femminile. Perfetto. Era un modo di evocare, insomma, la teoria della differenza, ma in un modo un pochino più light, più leggero. Abbiamo fatto diversi numeri di Aspirina. Io sono entrata dopo un paio d'anni, diciamo, non sono stata presente proprio all'inizio, ma sono arrivata ad un certo punto, poi siamo abbiamo trasmigrato sul inserto di Noi Donne. Sì, lo ricordo. E dopo un paio d'anni, per carenza di fondi, perché è sempre questo che affossa le imprese femminili, Aspirina è entrata nel suo periodo di latenza, che però non era la morte, tant'è vero che si è risvegliata splendidamente nel 2013 ed è diventata una rivista online. Rivista online che si chiama appunto, come avete giustamente citato voi, Accettil Satirica, la definizione di Anna Ciammitti, una delle nostre giovani, e usciamo ogni 3 mesi e da questo mese di maggio, da pochissimi giorni del 2016, siamo anche Aspirina International, perché usciamo anche in edizione inglese, cioè siamo diventate veramente global, tutto il numero è tradotto in inglese. Quello che succede in Aspirina è che si fa umorismo in tutte le sue forme, si fa satira, ironia, parodia, c'è posto per il demenziale, per il nonsense, per i giochi di parole, le battute intellettuali e anche le battute sciocchine. Quello che ci accomuna è l'idea della comicità al femminile, di quello che ci fa ridere insieme o ci fa ridere singolarmente, e questa è una grandissima cosa. Molto, molto bene, molto bello, direi. Senti, e allora hai già detto alcune cose, quindi tu, se non ci sei proprio dall'inizio, però sei una delle veterane, e ci dici un po' che ruolo hai all'interno della rivista, anche per chi ci ascolta, per capire come rintracciarti? Allora, io sono, dal momento in cui, diciamo, Aspirina è rinata e ha ripreso il volo online, io sono la misantropa. La misantropa, perfetto! Io sono la misantropa, sì, è stato un momento di molto importante, nel senso che quando mi parte Carra mi ha chiesto di riprendere di partecipare di nuovo all'impresa Aspirinica, e io ho pensato che cosa veramente volevo fare, e mi è nato questo pensiero misantropo, cioè ho raccolto queste cose che si erano formate in me con gli anni. E quindi è nata la rubrica, praticamente è diventata una rubrica, un tormentone, che si chiama Pensieri di una misantropa. Perfetto, va benissimo. È una posizione di estremo privilegio, perché in quanto misantropa io posso dire qualunque cosa. Devo, sono quasi tenuta a essere politicamente scorretta. Nessuno si aspetta da me che io sia carina, gentile, equilibrata, obiettiva e tutte quelle altre cose che di solito impediscono l'esercizio del libero pensiero, specialmente delle donne. E finalmente ti puoi togliere qualche sassolino dalle scarpe, mettiamola così. Sì, certo, certamente. E poi è avvenuto un incontro magico fin dal primo numero della nuova Aspirina, quello con Teresa Sdralevic. Sì. Grazie alla suprema capacità di Pat Carr di tessere, no? rapporti e tele, lei mi ha messo in contatto con Teresa, che è un'illustratrice bravissima, che vive a Bruxelles, italiana, ma che vive a Bruxelles, e abbiamo scoperto di avere in comune la passione per un animale che è diventato il totem della misantropa, l'animale totem, il coccodrillo. Ecco, la misantropa, io le scrivevo poesiole sui coccodrilli e lei le illustra, insomma, quindi diciamo che siamo diventate una coppia abbastanza fissa, che poi per due misantrope non c'è niente di meglio che un incontro a distanza. Ecco, giusto, è giustissimo, quindi molto bello. E allora, io credo che adesso mandiamo un pezzo musicale? Un'altra domanda? Sì, ok, allora hai già detto alcune cose, nel senso che le hai anticipate, però proviamo a dirle ancora più dettagliatamente, ed è: quali anime vivono all'interno di Aspirina e come si accordano tra di loro? Hai già parlato anche quindi di un lavoro a distanza, e quindi dici altro, se c'è, e com'è? Sì, beh, certo, Aspirina è un... come dire, ha la capacità di vivere in più dimensioni, di essere, di orchestrare incontri e armonie a diversi livelli. Noi ci vediamo, ci incontriamo qualche volta, ci incontriamo periodicamente, di solito a casa di Pat a Milano, a casa di Livia. Mm-hmm. Però lavoriamo molto, ovviamente, anche online, facendo lunghe telefonate, mandandoci mail costanti. Lavoriamo molto con il computer, naturalmente. Alcune di noi si conoscono, altre no. Ci sono anche alcuni uomini in aspirina, in posizione, come posso dire, decentrata. Certo. Perché è chiaro che il potere aspirinico è in mano alle donne. Certo. Su questo non si discute. Allora, quelle le anime di aspirina? Beh, innanzitutto devo dire, ci sono le giovani e le vecchie, cioè quelle che stavano già lì negli anni, alla fine degli anni Ottanta, e quelle che sono arrivate dopo. Le vecchie siamo Pat, Piera, Isha, io e altre che compaiono forse più saltuariamente. Poi ci sono le giovani, le splendide giovani, che sono Loretta, Elena, Livia, Anna, Manuela e altre. Questo è un elemento molto importante di aspirina, perché ci permette di unire tematiche e sensibilità diverse. E come dialogate? Perché siccome siccome anch'io sono un po' datata, qui alla radio lo sanno, loro poi le mie compagne naturalmente sono ignorantelle, quindi adesso stanno facendo risolini e risatine, però io ricordo che nel femminismo seconda metà degli anni 70 il divario di età non era un problema. Oggi invece non si fa che parlare della differenza dei femminismi, anche determinata dalle differenze di età. E quindi stai descrivendo una situazione magica, cioè che invece voi dialogate. Allora, noi chiaro, siamo diverse per generazione, siamo diverse come persona, però devi tener conto che abbiamo almeno due elementi in comune, grandi elementi, che sono il femminismo, cioè le giovani si sono coagulate attorno alla Libreria delle Donne di Milano, sì. Quindi non sono, almeno quelle che rappresentano il lavoro, cioè che svolgono il lavoro redazionale più stretto, no? Sì. E quindi partecipano di quel pensiero lì, anche se in modo diverso, con una sensibilità che può essere più, no, più legata alla loro età, ma non per giovani intendo donne dai 25, 35, 40 anni, quindi, certo, quindi giovani, quelle che, certo. Mm-hmm. Ecco. Il secondo elemento è il lavoro è un grandissimo punto di fusione, cioè aspirina è un lavoro. Anche se lo facciamo ridendo, anche se ci piace tanto, anche se non guadagniamo niente, questo è un grande punto su cui le nostre menti si affaccendano, non solo le nostre, diciamo un grande nodo del tempi moderni, il lavoro non pagato. È un grande nodo, siamo d'accordo. Grandissimo, perché ognuno di noi ci mette le sue competenze, che sono diverse, e certo, che però trovano attenzione e rispetto da parte delle altre. Infatti, e poi devo problema, dire anche un'altra cosa, un altro punto d'unione, lei non mi sta ascoltando e quando mi ascolterà sarà troppo tardi, un altro importantissimo punto d'unione è la grandissima capacità di tessere appunto tele e rapporti di Pat Carra. Okay. Brava. E quindi questa è la cosa è questa. Vi ricordo tra l'altro che Pat nei suoi ultimi lavori ha fatto appunto delle tele, che non è casuale. I suoi ultimi lavori sono, che ha esposto per esempio in mostra alla Fenice di Venezia e in altri luoghi prestigiosi, sono delle tele, le vignette ricamate su tela, quindi questo è, diciamo, un omaggio simbolico alla sua capacità di tessitrice. Certo. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale, Caterina. Sì, tu sai che io sono non riesco a parlare nessuna lingua che non sia il romanesco, per cui annuncia Rosina. L'annuncia Rosina che è la nostra voce, le voice. E vai. Io so che Lucilla avrebbe preferito un pezzo dall'iPod di Annibale mentre varcava le Alpi, ma invece dovremmo sentire Zala, I'm in Love. Grazie Rosina. Allora, rieccoci di nuovo in diretta. Volevo ricordarvi nuovamente che il commento musicale di questa trasmissione è stato curato da Elena della redazione di Aspirina. E questo pezzo che abbiamo ascoltato è di una cantante svedese, figlia di una rifugiata curda, si chiama Zala, appunto, l'abbiamo detto prima. E come avete sentito è un pezzo dance, si capisce che è stato scelto da una giovane, appunto. E la particolarità di questa canzone è che nel video della canzone una catena di donne che si legano i capelli l'una con l'altra viene appunto rappresentata in questo video. È una dance politica, appunto, ci piaceva ricordarlo. Allora, ripassiamo alla mia voce, meno sensuale, però va da sé. Allora, detto questo, dette cose già molto interessanti con Margherita, siccome il mio amore per quello che scrive Margherita è nato proprio quando ho letto la sua prima fatica, e cioè Pioniere del Sesso, scusatemi, Un'americana a Parigi, poi anche Pioniere del Sesso, naturalmente. Ma la cosa che più di tutti mi è piaciuto di Margherita, e ce lo siamo già dette, è proprio questa sua capacità di fare ironia, questa sua vena ironica, che è una cosa per me sconvolgente, nel senso che io non sono capace ad essere ironica, e invece è una qualità, è una dote che per me è molto significativa. Allora, la domanda adesso è proprio riferita a questo aspetto, cioè l'aspetto satirico come si sviluppa e dentro Aspirina, e Margherita, che cosa muove in te, cioè tu come ti muovi, perché hai questa ironia, e che cosa fa per te l'ironia, che cosa è per te? Che cos'è per me? Ma io, guarda, penso che sia... Beh, intanto aprire il discorso non è solo l'ironia, è proprio il grande mondo del comico. Il comico possiede tante sfumature, tante venature, e credo che faccia parte del mio patrimonio genetico. Ci ho messo anni a capirlo, e l'ho capito anche scrivendo il mio ultimo libro, cioè sono riuscita a mettere insieme le memorie e trarre le conclusioni. Il comico in tutte le sue forme è una cosa che scorre nelle vene della mia famiglia. La mia nonna paterna, mio padre, le mie zie materne c'erano stati in ogni generazione familiare, da una parte e dall'altra, dei portatori sani di questa malattia, sì, del comico, che poi prende varie forme, che può essere la parodia, la mimica, l'ironia, la satira, lo sberleffo. E devo dire che fa un po' parte anche di una tradizione nostra, perché noi qui, diciamo, loro venivano da zone un po' depresse, insomma, da zone non particolarmente ricche, della montagna, insomma, era una cosa presente nella loro lingua, nella loro vita. C'era nella lingua dei miei antenati una capacità di ridere delle proprie miserie, e anche di prendere in giro i prepotenti, i boriosi, gli stupidi, insomma, di prendersi in giro, di autoprendersi in giro. Allora penso che sia semplicemente stato un atto di accettazione di questa eredità e di messa in valore. Anche non mi hanno lasciato soldi, ma hanno lasciato quello. E vuoi che sia poco? No, è tantissimo. No, è molto. È tantissimo. E, poi l'incontro con Aspirina, insomma, io ho incontrato altre persone affette dalla stessa malattia, ognuna a modo suo, ma insomma, abbiamo tutto questo gene del comico che ci porta, quando chiacchieriamo anche delle cose più serie, poi arrivare al momento in cui ci pieghiamo in due dal ridere. Perché comunque la comicità è una necessità per noi, cioè è terapeutica. Certo. È anche visione. Cioè, ridere è da una parte è catartico, perché ti purifica dal dolore, no? È ovvio che poi la satira contiene anche un'istanza morale, una volontà utopica di cambiare il mondo. Chi fa satira lo sa, e quindi ride ancora di più, perché non solo ride del mondo, ma anche della sua ingenuità, che vorrebbe cambiarlo, insomma. E certo. E poi la comicità è preventiva, è una prevenzione sia della criminalità sia delle malattie, perché ridere di sé serve a non ammalarsi e risparmiare tantissimo in psicoterapie, e ridere degli altri serve a non ucciderli. Esatto, esatto. E quindi è una cosa che serve molto se sfruttata bene, insomma, è per questo che aspirina si chiama come un famoso medicinale. Certo. Perché dà sollievo ai mali delle donne. Quindi forse ci stai anche dicendo? Gli uomini, non lo so, comunque ai nostri sicuramente sì. Certo. Inoltre poi c'è anche un'anima seria. Tu prima parlavamo delle anime di aspirina, noi abbiamo ultimamente recentemente inserito anche l'anima più seriosa, sì, quando diciamo le nubi del pensiero si addensano sulla nostra testa, in una nuova rubrica che si chiama, in una una sezione di aspirina che si chiama Mumble Mumble, giustamente. E quindi è molto riflessiva, ci stai dicendo? Molto riflessiva, sì. Quindi vi invitiamo ad affrontarla con le dovute precauzioni, perché è una cosa di pensiero. No, in realtà è una cosa che per noi è stata importante, ci ha dato sfogo anche a questa nostra seriosità. Abbiamo scritto delle cose su argomenti molto seri, dagli attentati di Parigi, certo, al festival, cioè alle polemiche del premio di Angoulême. Ecco, infatti è lì che volevamo arrivare. Esatto. Ti volevamo portare anche su questa domanda. E quindi, ma ci dici qualcosa su questa annosa vicenda che abbiamo seguito su aspirina anche noi? Sì, allora la vicenda è questa. Qualche mese fa, insomma, un gruppo di fumettiste francesi, di cui fa parte anche la famosa, non l'ho mai capito se si chiama Marianne o Mary Jane, insomma, comunque Satrapie. Insomma, questi fumettisti hanno protestato contro il maschilismo dei vignettisti, degli organizzatori del Grand Prix d'Angoulême, che è un premio che viene attribuito ogni anno ai fumettisti, a chi lavora nel campo della bande dessinée. Perché pochissime sono le presenze ammesse in questi concorsi e quasi nessuno mai vince, nessuna donna vince, mentre in realtà sono tantissime le donne che lavorano nel fumetto, no? Mm-hmm. Che vengono pubblicate, che si esprimono, che scrivono fumetti, che scrivono in varie vignette e fumetti. E Aspirina ha risposto, no? È stata, sì, questa una risposta mossa molto dalla volontà di Pat, ma a cui abbiamo riflettuto su questa cosa, diciamo, in modo a doppio taglio, ecco. Sì. Perché le aspirine non sono, come dire, il riso non ti consente di essere così lineare come l'ideologia che sa il bello, il cattivo, divide il buono, il giusto, il cattivo dall'ingiusto, insomma. Certo. Il comico ti pone in un'altra posizione. Insomma, da un lato noi abbiamo manifestato, cioè, la nostra solidarietà a quelle che sono ingiustamente, cioè sono delle discriminazioni reali. Dall'altra però abbiamo anche invitato le donne le fumettiste, sì, a evitare forse non volersi limitare a chiedere l'inclusione nel mondo maschile, no? Certo. Non imitare quei modelli, certo. Non negare che le donne siano altra cosa, no? Perché sembra che il modello dell'eccellenza sia l'uomo, che l'idea sia quella: io disegno come un uomo, quindi perché non posso prendere premi come un uomo? Ecco, noi ci siamo detti: ma io forse non disegno come un uomo, forse non penso nemmeno come un uomo, e non è nemmeno il mio ideale, ecco. E quindi le abbiamo poi anche invitate a riflettere su questo aspetto. A riflettere e a cercare il riconoscimento più nelle donne. Certo. A cercare anche di unirsi, insomma, di prendersi in considerazione tra donne, e non cercare sempre aspettarsi che sia una presenza maschile a dirti: tu esisti, io ti riconosco. Ecco. Certo. È vero che poi resta il fatto che noi magari i premi non li prendiamo. Vabbè, insomma. Però io so, per esempio, che verrete a Roma anche, no? Verremo a Roma, ecco, sì. Aspirina sarà a Roma. Allora, aspetta, me lo sono scritto perché io ormai giovedì... Mi sembra il 30 di 30 giugno. 30 di giugno. Uh-huh. Sarà a Roma a Bande des Femmes 2016, alla Tuba Bazar del Pigneto. Uh-huh, conosciamo, uh-huh, benissimo. Questo nel pomeriggio, alle 19, il sabato pomeriggio. Il programma definitivo ancora non è online, ma dovreste trovarlo presto. Il luogo è quello, e Aspirina sarà parte prenderà parte a un dibattito che si svolgerà presso il Tuba Bazar. Mm-hmm. Okay. Sì. Ok. Sì, benissimo. Quindi intanto è un bellissimo appuntamento al quale, diciamo, a tutte di non mancare o comunque di andare a curiosare, di partecipare, visto che Aspirina la troviamo in trasferta, che è una cosa ottima, no? Sì. E niente, quindi benissimo, abbiamo anche l'appuntamento presto con voi. E allora, un altro pezzo musicale? Sì, perché scusaci, abbiamo parlato parecchio. Ti tratteniamo ancora qualche minuto, Margherita, se non ti dispiace, mandiamo un altro brano musicale, che sempre, Rosina. Certo, con piacere. Okay. E allora, eccoci qua di nuovo, sempre un pezzo scelto dalle compagne di Aspirina, Pickles from the Jar, di Courtney Barnett. È una cantautrice australiana e questa canzone è dedicata alla sua fidanzata, è una canzone d'amore. E in questa canzone lei dice praticamente che non hanno nulla in comune lei e la sua fidanzata, se non l'ammirazione per Christopher Walken, che lo ricordiamo è un attore americano. Io me lo ricordo nel Cacciatore di Cimino perché sono datata, però ha fatto anche Io e Annie di Woody Allen, che è datato pure quello, ma per le giovani ha fatto anche Batman, via. Allora lo ascoltiamo di adesso, Courtney Barnett. Sorry, let's do that again. Dance, you say dance. I say friends, you say France. You're from Adelaide, I'm from Hobart. I say Hugh, you say grunt. I say pot, you say plant. You're from Adelaide, I'm from Hobart. Smart. We are 15 years apart. You're from Adelaide, I'm from Mars. I say ooh, you say ah. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci: fino alle ore 22 qui in radio, allo 06 49 17 50, oppure con una mail a contatti@clrbp.it, oppure visitando la nostra pagina Facebook CLR Roma. Ricordo il nostro sito che potete consultare, sul quale verrà poi pubblicata a breve anche il sonoro di questa trasmissione che sta andando in onda oggi, che è www.clrbp.it. Prego. E torniamo a noi, quindi torniamo nuovamente in diretta, anche l'annuncio di adesso era in diretta. Allora, vorrei anche dare questa notizia circa Aspirina, Margherita, consenticelo, e cioè il fatto che sia uscito l'ebook Nuvole sul lavoro a gennaio 2016 e che è nato dall'incontro di ACTA, cioè Associazione delle Freelance, e Aspirina. Sei racconti, scritti e illustrati dalle firme di Aspirina, narrano con ironia le difficoltà del lavoro di oggi. Racconti di Bulander, Francesca Maffioli, Cirilla Mango, Laura Marzi, Clara Rizzitelli e illustrazioni di Dalia Del Bue, Ilaria Grimaldi, Marilena Nardi e Isia Ususkova. Allora, torniamo alle domande, e quindi un'altra cosa che ci piacerebbe sapere, e che peraltro hai già in parte detto, ci sono collaborazioni esterne e sono ricorrenti? Quali sono le collaborazioni esterne? Sono ricorrenti? Esterne, sono occasionali? Allora, diciamo, c'è una redazione più ristretta e una redazione allargata, ecco, nel senso che tutte quelle che stanno in Italia e vicinanze possono venire alla redazione allargata, possono alle riunioni allargate, possono collaborare, ma le collaborazioni sono molto, molto aperte, ecco. Noi siamo molto aperti, ci sono delle collaboratrici che lavorano con noi quasi in modo quasi regolare, altri in modo più saltuario, dipende anche dall'ispirazione, no? Certo. Abbiamo delle meravigliose collaboratrici estere, dei ponti con il mondo, no? Che sono estremamente importanti per noi, e vorrei citarli. Vorrei citarli cominciando dall'ultimo, con Argelia Bravo, un'artista venezuelana che mi encanta. Ma dai, io vorrei tanto conoscerla di persona, ho visto i suoi video, ne abbiamo messo uno sull'ultimo numero, si chiama Tutorial della Cuciara, dove la cuciara è un cucchiaio, una danza meravigliosa che lei fa con un cucchiaio, ma la cuciara è anche un termine così gergale per indicare il sesso femminile. Ah, ecco. E il tutorial della cuciara è contro Monsanto, perché Argelia Bravo è un'artista che tra l'altro è stata, diciamo, ospite della Biennale di Venezia, dove ha curato il padiglione venezuelano, quindi un'artista riconosciuta che si batte, diciamo, che contro la globalizzazione, contro il furto delle terre, no? E che Monsanto sta facendo ampiamente in America Latina, sì. E fa questi meravigliosi video di guerriglia ecologica e popolare, in cui ci sono le contadine e le performance che lavorano, insomma, ci compaiono come guerriglieri, come col passamontagna. Io vi consiglio di andarle a vedere, l'ultimo su Aspirina, lei lavorerà ancora con noi e anche su YouTube. Okay, poi un'altra collaboratrice abbastanza, diciamo, costante è Liza Donnelly, una raffinata cartoonista newyorkese che è dai colori pastello, dallo humor urbano e sofisticato. E poi c'è Doha Elad, egiziana, ma che dai, invece lavora con colori molto intensi e tematiche purtroppo molto intense, sono tematiche di guerra, di migrazioni, di profughi, di insomma sono delle realtà del paese, del suo paese, dei paesi vicini. Certo. C'è questa sua vignetta meravigliosa in cui c'è la massaia che sale in terrazzo per stendere il bucato e trova i fili del bucato occupati da armi appese ad asciugare, no? Che si dice proprio come la guerra e la violenza sono diventate parte del quotidiano in molti paesi del mondo. Poi abbiamo ospitato e ospiteremo vignette, diciamo, di vintage di Alison Bechdel, tratta della sua immortale saga Dykes to Watch Out For, la storia di una comunità lesbica vista 25-30 anni del suo evolversi. E Flavia Company e Susanna Martin dalla Spagna, che ci parlano delle nevrosi moderne, soprattutto delle lesbiche moderne, eccetera eccetera, insomma. Queste sono alcune delle nostre collaboratrici estere più importanti, ecco. Che bello, veramente meraviglioso. Senti, visto che noi ti conosciamo, prima di mandare l'ultima canzone, io volevo farti l'ultima domanda che rubo a Lucilla. Mi ruba la scena. mi permetto di chiudere in bellezza. E quindi, come si può prendere contatti con la rivista? E soprattutto, c'è un modo per sovvenzionarvi? Ma certo, non ecco, permetteremo, vogliamo dirlo. Se vuoi dare allora, qualche coordinata è meglio. Io voglio salutarvi a nome di tutta la redazione. Grazie. Ovvero di Loretta Borrelli, la dea del web, detta anche la bracciante digitale. Okay. Chiara Bosotti, la poeta della bicocca. Pat Carr, la tessitrice delle nostre trame. Anna Ciammitti, alias Wonderina. Manuela De Falco, giovane dama elusiva, detta anche regina del banchetto, intendesi quello dove si vendono i libri. Margherita Giacobino, ovvero la misantropa. Elena Leoni, arbiter della grafica e della musica. E Livia Le Petit, alias Ormone Mistico. Benissimo. Ecco, a nome di tutte loro vi salutiamo e vi invitiamo. Allora, prendere contatti tramite il nostro sito. Comperare i nostri pub. Noi abbiamo editato tre i pub. Che sono, diciamo, un mix di fumetti e testo che si muovono, cantano e ballano e sono deliziosi e potete scaricarli online per cifre assolutamente modiche. Bene. Comprate i nostri pub 3, noi vi noteremo, vi vorremo bene, vi scriveremo. Comprate le nostre cartoline, mandatele alla donna amata perché la conquisterete. Ecco, venite a trovarci a Roma appunto il 30 giugno oppure anche a Venezia il 18 giugno, saremo il 18 giugno a Venezia alle 23:30, un'ora tremenda, all'Art Night alla Biblioteca delle Zattere. Sì. Benissimo. Ascolta, l'ultima proprio informazione tecnica per evitare che qualcuna magari cliccando aspirina gli si apre veramente la medicina, hai un indirizzo magari un pochettino più preciso? No, l'indirizzo è aspirina alla rivista, scritto tutto attaccato, però prova provata, se voi chiamate aspirina la prima cosa che viene fuori siamo noi. Vai grande. Okay. Sì, comunque, e la Bayer non ci ha fatto causa perché gli diamo lustro, ci dovrebbero pagare, infatti noi stiamo cercando di trovare il sistema e farci pagare da loro. Esatto, se viene in mente bravissima. Qualcosa di efficace, ditelo. Sì, adesso noi ti ringraziamo per aver partecipato a questa nostra trasmissione e ci diamo appuntamento ad un'altra trasmissione prossimamente, insomma, con qualche altra, magari con il tuo nuovo libro, non so. Va bene. Io me ne parlerò un'altra volta, adesso vi lascio andare, va care bene, ragazze. Allora, ti salutiamo tutte e Caterina che ti ha parlato adesso, io che sono Lucilla e The Voice che adesso annuncerà l'ultima canzone. A presto, viva Margherita, viva Aspirina e via. Ciao. Ciao. Margherita, grazie per essere state con noi e siccome abbiamo scelto di ridere, anche Jean Moreau ci aiuta in questo, Je suis de rire, perdonate la pronuncia. A presto Margherita, grazie. A presto, un bacione. En me serrant dans ses bras, je vous promets mon émerveille, amour toujours, etc. Il me disait avec emphase, j'ai choisi de mourir pour vous, mourir pour moi, des mots, des phrases, ce que j'ai choisi est moi fou. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des baisers perdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus. Adieu serment, adieu promesse, adieu caresse, adieu baiser. Et c'est avec délicatesse qu'il prétendit ne plus m'aimer. Je n'ai rien trouvé à lui dire, mais puisqu'il faut mourir toujours,